E ben trovate a questa nuova puntata di Slick Chick con questa musichina sottofondo che ci dispiace un pochino sfumare, ma d'altra parte cazzo, durava 20 minuti questo pezzo e quindi prima o poi dovevamo iniziare. Questa puntata di oggi l'abbiamo un po' annunciato, si è fatta anche attendere, infatti la puntata scorsa l'abbiamo zompata, ma vabbè, e la puntata di oggi è dedicata a David Lynch, il regista allegrotto e pieno di gioia di vivere, che sicuramente insomma non avrà bisogno di essere presentato non certo da me, e di cui oggi vi iniziamo a parlare qui a Slick Chick, ma in realtà continueremo anche mercoledì prossimo perché siamo talmente ambiziosi in questa radio meravigliosa che è Radio Wombat da voler dedicare ben due puntate a Lynch e alla sua visione distorta del mondo. E oggi, cioè entrambe le puntate non le farò da sole, anche perché veramente non sarei in grado, ma mi farò aiutare da due espertoni. Oggi abbiamo, come si devo chiamare? Prog 85 o? Sì, Prog 85 va bene. Ok, Prog 85 e che con cui oggi inizieremo un po' a scandagliare appunto le inquietudini di questo personaggio così un po' ambiguo. Ma stai parlando ancora di me? O no, che, no, no, no, non mi permetterei. No, no, no. Parlavo appunto del signor David Lynch e invece sabato no, ci facciamo tutti il weekend. No, mercoledì prossimo alla seconda puntata dedicata a Lynch invece avremo un altro ospite che è Nato Date, che ci aiuterà a ricercare un po' tutto quello di cui non abbiamo parlato oggi essenzialmente, perché oggi insomma è difficile parlare di tutti i film di Lynch, soprattutto farlo attraverso la musica, perché di musica legata ai film e alla poetica di Lynch ce ne sarebbe veramente da ascoltarne per anni. E oggi però invece ci concentriamo su tre film in particolare, in quelli che abbiamo deciso noi che sono una trilogia, ma in realtà non si sa bene se è così, ma vabbè, lo vedremo. E poi invece nella prossima puntata di mercoledì approfondiremo un po' tutto il resto. E en passant, in queste due puntate vi faremo sentire anche un po' del Lynch musicista, perché ora come si è trattato anche quando si parlava di Jim Jarmusch, delle colonne sonore sue che in parte faceva anche lui con le sue manine, anche riguardo a Lynch un po' si potrebbe dire la stessa cosa, perché il suo zampino anche musicale c'è un bel po'. Quindi, Prog 87, iniziamo a parlare un pochino, intanto diciamo di quali film dovremo andare a parlare. Allora, buonasera, prima di tutto mi presento per bene, buonasera a tutte e a tutti. Io in realtà sarei venuto molto volentieri anche nell'ultima puntata dedicata all'insonnia, perché comunque io sono un esperto più di insonnia forse che di Lynch e di cinema. Sì, però puntata un po' trash mi hanno detto effettivamente, ne faremo altre no, magari. Anzi, io la proporrei anche più in tarda notte. Giusto. Visto che fare delle puntate dedicate all'insonnia. Comunque, giusto. La puntata di oggi su Lynch non è proprio dedicata all'insonnia, ma forse al suo opposto? Eh sì, no. O comunque l'insonnia ve la facciamo venire. Ce la fa venire, però un po' dedicata almeno a mio avviso, al mondo onirico e soprattutto al linguaggio onirico, anche se non sminuirei così il linguaggio cinematografico di Lynch né lo rinchiuderei in questa scatola onirica. Lungi da noi, lungi da noi. Noi siamo per aprire scatole, staccare etichette, fare tutto questo. Aprire scatole, già facciamo vedere delle citazioni che i più colti di voi avranno capito, scatole blu, e vabbè. Che bravi che siamo. Comunque, allora, parleremo di questa trilogia che non propriamente è nata come una trilogia, ma definita così proprio più che altro dalla critica, In ordine cronologico saranno Strade perdute, Lost Highways. Sì. E, del Mulholland, 97. Del 97, Mulholland Drive del 2001. Esatto, esatto. E Inland Empire, l'impero della mente, del 2006. 5 io ci ho scritto, 2005. Ma magari il 6, boh. Io mi ricordavo il 2006. Vabbè, però comunque vabbè, hanno più, hanno meno. Sì. Sì, però noi non le faremo giusto in, in ordine, perché noi siamo così, siamo un po' che ce ne frega. Sì, ma tanto poi nel, diciamo, nel mondo onirico, nel mondo del subconscio non esiste un prima, un dopo, un io, te, dove, quando. Esatto, la linea temporale va assolutamente sovvertita, giusto, sono d'accordo. E infatti sì, noi ce ne freghiamo altamente e proprio, anzi, volutamente per sovvertire la linea temporale, ci mancherebbe altro, noi andiamo completamente a caso e anche all'interno del pezzo del film stesso, peraltro, guarda come siamo anarchici, perché non è che ci ricordiamo esattamente ogni pezzo che vi faremo sentire a che scena corrisponde, ok? Non ce no, lo ricordiamo. Sarebbe troppo limitante. Come giusto, è, giusto, è giusto. Troppo, cioè, italiano. Troppo, sì, sì, indirizzerebbe troppo un pensiero... Non vogliamo. No, no, poi vi daremo degli troppe, sì, troppi paletti, invece non mi sembra il caso. Intanto in regia ci sono delle presenze inquietanti. Oddio, è arrivata la donnina col ceppo, è arrivata la signora col ceppo, bene, forse questa puntata già finisce così. No, non è vero, non è vero, noi siamo forti e abbiamo visto tutti i film di Lynch e quindi figuriamoci se ci spaventa questo. Niente, quindi io direi facciamo sentire subito un primo pezzo tratto dalla colonna musica, come direbbe Virginia, perché se dico colonna sonora poi mi bacchetta. Sì, perché la colonna sonora, come avete spiegato, è tutto quello che riguarda l'audio di un film, no? I suonini, è... schaff, se va. Sì, no, invece no, noi facciamo cioè sebbene anche i suonini dentro i film di Lynch siano interessanti, però noi non vi faremo sentire quelli e vi faremo sentire soltanto la colonna musica. Nel particolare iniziamo con Milt Buckner, ebbene sì, con il suo The Beast. Ah, ovviamente, disclaimer, come tutti quelli che conoscono i film di Lynch, insomma, immaginano e sanno, si parla di una musica molto variegata, alcuni dei pezzi sono piuttosto trash, ma vanno letti, direi, all'interno appunto di questo mondo bizzarro di Lynch. Quindi, insomma, prendetela un po' come viene questa puntata. Milt Buckner, The Beast. Thank you. Come la metteva bene, eh? Come era tutto un po' allegro, un po' da ascensore. Sì, un po' da ascensore, piano bar, però anche un po' questo sottofondo un po' blues. Sì, c'è vero. Sempre qualcosa che ti... che riempie comunque. Sì, e poi c'è sempre qualcosa di stonato, ma vabbè, ma questo lo diremo. Quindi Mulholland Drive, si diceva, film del 2001... Di cosa parla non lo diremo. Allora, di cosa parla non lo diremo perché è da cafoni. Sì, è volgare. Volgare. Non si può dire di cosa parla un film di Lynch. Un film in generale anche, però soprattutto in questo caso evitiamo la volgarità. No. Comunque è un film ambientato a Hollywood, in Hollywood ancora almeno in parte, per metà parte del film, una Hollywood splendente, ancora insomma, diciamo agli splendori, e quindi tutti i riferimenti musicali, non solo musicali, anche proprio visivi, alla Hollywood degli anni 50, degli anni 60, i pezzi... come sentiremo tra un po', pezzi rock and roll, doo-wop, proprio degli splendori non solo di Hollywood ma anche di quello che ci facevano vedere dell'America, no? Eh sì, quello, quando il mondo era tutto bello, patinato, e tutto andava bene, insomma, sì, più o meno. E poi dopo invece si scopre che non è poi così bello, sì, patinato, sempre, rimane sempre patinato, ma non così bello, come tra l'altro... può essere una delle citazioni che ha scelto Lynch per questo film, che comunque ci ha mandato dei messaggi, o comunque che viene facilmente intuibile, il viale del tramonto di Billy Wilder. Eh già, perché di citazioni il signor Lynch ne mette a bizzeffe. E non a caso. Anche il titolo del film, Mulholland Drive, è una strada di Hollywood, come lo era appunto il Sunset Boulevard, viale del tramonto. Dove vediamo questo culto, questo divismo, che ha però due facce della stessa medaglia. Certo, due facce inquietanti della stessa medaglia, direi. Perché c'è sempre un rovescio della medaglia. Qui ci si rivoca. Io lo sapevo che questa era una bieca manovra per fare pubblicità all'altra trasmissione. Sì. E poi a un certo punto ci sarà un pezzo progressive, lo so. No. E ora partono gli aree, no. No. Comunque, e continue citazioni, comunque questo è un grandissimo film, Il Viale del Tramonto, comunque, dove c'è questa decadenza del divismo. Io ci leggo un po' anche quell'inquietudine che era nel film che fino ha fatto Baby Jane. Ah, wow. Non mi ricordo in inglese il titolo originale, come sì, di sì. Robert Aldrich. E anche quello parla di una precoce decadenza delle dive, addirittura quelle degli anni, dei primi Hollywood degli anni 20, e ci sono secondo me in Lynch ci sono dei rimandi a queste figure un po', diciamo, vissute, troppo vissute, vissute male, proprio in decadimento sia fisico che morale, no? Sì. È vero, la decomposizione. La decomposizione proprio anche fisica. Corpi proprio, in decomposizione, sì, è sì. Vero. Questa cosa c'è un sacco, così come peraltro c'è anche nel suo cuginetto Cronenberg, mi viene da pensare uno degli ultimi film, quello che non mi ricordo mai come si chiama, sulle stelle, su Hollywood, anche lui. Ah, certo. Insomma, gliene dava secche con la decomposizione, la decadenza del mondo hollywoodiano. E sì, o anche Cosmopolis, non mi ricordo, non ho mai capito come si dice, dove si mette l'accento. Comunque sì, effettivamente questa decomposizione appare un po' sempre, mi verrebbe da dire, anche a me. E vabbè, e poi finiremo con arrivare a Twin Peaks, ma di Twin Peaks oggi non vogliamo parlare. Che il protagonista, scusa se ti interrompo, sì? Il protagonista principale è un cadavere, quindi hai capito? In fase di decomposizione. Anche a me veniva infatti questo facile paragone. Però, infatti, no, di Twin Peaks non vogliamo parlare, anche perché, insomma, i più ingenuotti tra voi avranno subito pensato che noi abbiamo fatto questo speciale dedicato a David Lynch di Slick Chick soltanto per cogliere il lancio pubblicitario della prossima uscita di sabato del nuovo Twin Peaks. Cioè, io lo so che l'avete pensato perché siete delle persone maliziose e cattive, ma non è vero, è anzi, vi diciamo com'è andata veramente, che è stato il contrario. Cioè, noi abbiamo ricevuto una telefonata in studio dall'impresario di David Lynch, Ross Rusnitz, che ha detto, appunto, ti ricordi, ci Sì, cioè, chiamava. sì, ci ha chiesto gentilmente se, diciamo, anche così come può fare la nostra radio a livello locale, ma non solo, si Sì. A poteva dare una spinta a Twin Peaks, Twin Peaks, sì. perché ne aveva bisogno, perché. Sì, e ha detto, ma guarda, se mi fate un po' un lancio, cioè, sarebbe carino, poi magari, non lo so, nei titoli di coda ci metto un wombat che passa, insomma, si fa un po' una mano lava l'altra. Wombat che stira, più che altro, vediamo se riconoscete le mie citazioni. Oh là là. E quindi vabbè, che gli devi dire? Cioè, poi Lynch c'ha un'età, cioè comunque non è che poi, cioè, a me mi dispiaceva anche dirgli di no, francamente. Infatti, dai, Quindi no, ma come. abbiamo fatto un po' sta marchetta, vabbè, lo dobbiamo Sì, ma fare per la cultura, per la bene, non cultura. esiste Marchetta. una Hai marchetta. ragione, hai ragione. E quindi sì, per la cultura abbiamo deciso di fare questo speciale. Ma ed ora sì, ci stavamo distraendo con la La decomposizione. scaletta, sì, e tornerei io Torniamo ai ai fasti. fasti di Hollywood degli anni 50, Quando tutto era bello, quando bravo. tutto era bello, e mettiamo un pezzo che. Mettiamo questo pezzo di Linda Scott che si chiama I Told Every Little Star, che vogliamo dedicare a una grande interprete di questo pezzo, che è Nenia, che l'ha fatto sul palco, il prestigioso palco del Next Emerson, a un cabaret di non mi ricordo che anno. Sarà stato il 64, Sì, sì. era. Sì, nel 64, mi sembra apriva Buscaglione, ora non mi ricordo bene, però insomma sì. Il periodo era quello, Sì, insomma. sì. E quindi lo dedichiamo a Nenia e quindi I Told Every Little Star di Linda Scott. A sentire questa canzoncina per sempre, Ma purtroppo è finita e dobbiamo tornare a sprofondare nel gorgo, Nell'incubo. sì, nell'incubo, nel gorgo di David Lynch. In particolare non possiamo non citare, anche perché in effetti mi sono resa conto che non ho neanche detto il titolo e l'autore del primo pezzo che vi abbiamo fatto sentire. E tutto si collega perché si tratta di Angelo Badalamenti. Ovviamente, quando si parla di Lynch, si parla di musica. Vabbè, il caro Badalamenti va citato. Il primo pezzo che abbiamo sentito in apertura, subito dopo la sigla, era appunto di Badalamenti, Moving Through Time, tratto dalla colonna musica di Twin Peaks, Fuoco cammina con me, però attenzione. Di Badalamenti proseguiremo a farvi, cioè a farvi ascoltare un po' di pezzi, uno adesso e uno un po' più là, e comunque insomma ci ritorneremo sopra perché è un personaggino abbastanza importante. Ne parleremo anche con Autodate nella prossima puntata in maniera approfondita, però oggi comunque vi diamo un po' di assaggi e in particolare vi leggo questo pezzettino tratto da questo libro. In realtà, Prog 75 hai portato te, quindi io non lo so, però è un film, cioè un libro scritto da David Lynch che si intitola In acque profonde, meditazione e creatività. Un libro che io non comprerei mai se non fosse stato No, scritto da lui, infatti non probabilmente. l'ho comprato, ma me l'hanno prestato. Vedi, vedi. No, perché in effetti messa così marcherebbe male, però uno dice, Sì. vabbè, Perché Lynch. noi questa parentesi della meditazione trascendentale la vogliamo evitare, però Sì. lui molti dei suoi risultati nella cinematografia e non solo li dà, insomma, li dà la. Ma secondo me dipende tutto dall'LSD, te lo devo dire, perché cioè, pensa anche, non lo so, i tarocchi di Jodorowsky, vogliamo parlarne, o Alan Moore che a un certo punto decide che diventa un mago, cioè, è No, così. secondo me sono strettamente collegate. Non lo Che, tra so, l'altro, lui comunque vabbè. percorre tramite questa meditazione, percorre dei viaggi che non hanno, come appunto si diceva del sogno, non hanno una casualità effetto, e lui si ispira e gli vengono delle idee per fare i suoi film. Però comunque. Noi infatti non giudichiamo, non ci interessa, però in questo libro appunto Lynch parla un po' di varie cose, ovviamente non parla soltanto della meditazione, per fortuna, ma parla un po' di tutto, e c'è un pezzettino che dedica ad Angelo Badalamenti e dice così: incontrai Angelo Badalamenti durante le riprese di Velluto Blu e da allora ha composto musica per tutti i miei film. Per me è come un fratello. Lavoriamo così. Mi piace sedere accanto a lui sullo sgabello del pianoforte. Io parlo e Angelo suona. E vabbè, mi verrebbe da dire anche a me, mi piacerebbe, grazie tante. Suona le mie parole. Quando non le capisce, e a volte succede, suona davvero male. Allora dico: no, Angelo, così non va. Mi esprimo con parole leggermente diverse e lui suona in un altro modo. Di nuovo: no, Angelo, non va ancora, e così via. Con questo procedimento riesce chissà come ad afferrare qualcosa e a quel punto esclamo: perfetto. Inizia così, inizia quindi a lasciarsi trasportare dalla magia della musica, andando nella direzione giusta. È divertentissimo. Se fosse un mio vicino di casa, vorrei lavorare con lui ogni giorno. Ecco, non so se questa cosa è ricambiata, ma vabbè. Invece lui abita in New Jersey, io a Los Angeles. E finisce così. E secondo me Badalamenti è contento di non avere sempre Lynch accanto come la scimmia sulla spalla, che gli dice: no, così non va, no, così non va. Però, vabbè. Che poi sappiamo che è anche una voce Sì, abbastanza esatto. fastidiosa, la voce di Una David. vocetta. Dopo la sentirete, se non avete avuto il piacere di ascoltarla, si c'è questa vocettina un po' appena appena stridula, sì. E non lo so, te hai altre perle su Badalamenti, non No, so, su Badalamenti no, io farei ascoltare il pezzo e aneddoti. poi andiamo avanti con, diciamo, la nostra scaletta barra trama del film, che ho due cose da dire, ma proprio Va due. bene, va bene. Allora ci ascoltiamo Silenzio, giusto per schietare anche la vocetta di David Lynch, di Angelo Badalamenti. In realtà qui i credits dicono anche David Lynch, probabilmente l'hanno fatta insieme con lui sulle ginocchia. Ed eccola qua. Ecco, vi abbiamo rallegrato così, con questo pezzo. E vi abbiamo portato direttamente al Club Silenzio. Ebbene sì. Dove finisce la prima parte del film Mulholland Drive, dove le due protagoniste si ritrovano con una chiave blu in mano, si ritrovano a vedere questo spettacolo. Questo spettacolo che si presenta davanti è completamente fittizio, finto. E non c'è l'orchestra, come dice, come recita appunto il conduttore di questo show, di questo spettacolo, Noai Banda. Non c'è l'orchestra, non ci sono gli strumenti, non ci sono i cantanti. E tutto quello che viene fatto sul palco, tutto quello che viene percepito è finto. Fino alla cantante che interpreta se stessa, Rebecca Del Rio, che canta questa canzone. E ovviamente in playback, e dal primo piano di Rebecca vediamo che anche le lacrime che ha sul volto sono finte. Qual è, a questo punto, qual è l'unica cosa vera che viene, l'unica cosa vera all'interno del film sono le emozioni, tra virgolette, il trasporto emotivo che hanno le due protagoniste all'interno di quello spettacolo, perché sono, no, sono evidentemente colpite. È vero. Emotivamente. E questo è ovviamente anche, diciamo quasi banalmente, anche il rapporto tra noi spettatori e il rapporto al cinema di Lynch, no? È tutto finto. O al cinema tutto, mi verrebbe da dire. O al cinema tutto. È tutto finto, è tutto finzione, le uniche cose che sono vere sono le nostre emozioni, le nostre paure, i nostri ricordi, il nostro trasporto verso un personaggio, verso comunque le immagini. Sì. E quello che abbiamo, oltre a quello, quello a cui ci possiamo aggrappare sono le immagini. Noi ci dà delle immagini e anche se sono finte vengono prese come realtà. L'unica realtà che ci mette a disposizione Lynch è quella delle immagini che vediamo, poi il resto viene... dicendoti comunque che sono finte, quindi sì, sì, però nonostante sì. Questo tutta la finzione, ovviamente, come è nell'horror, è tutto finto, tutto anche qualche volta banale, però ti vengono i brividi sulla schiena e la notte dormi male. Insomma, e si torna all'insonnia. E si torna all'insonnia, giustamente. Sì, no, è vero, è molto vero e insomma è vero sempre, probabilmente parlando del cinema, anche soprattutto su alcuni generi e su Lynch probabilmente è verissimo. Così come è vero che ognuno ci vede un po' quello che ci vuole vedere dentro Lynch, probabilmente proprio per questo mi viene da dire, perché appunto... forse appunto è vero che l'unica cosa vera sono il nostro portato, il nostro, quello che ci mettiamo noi, e chissà che ci mette ognuno di noi dentro Lynch, ecco, chissà. Io intanto ci metterei Rebecca Del Rio, punto. Mettiamoci lei con le sue lacrime finte, che poi poverina c'ha sta voce che uno non le direbbe mai che è un infingarda, invece sì sta fingendo. Però lei a fine pezzo sviene sul palco. E lì, lo svenimento. Sarà finzione anche quella? Anche quella? Ma allora proprio non c'è proprio niente a cui aggrapparsi. È un mondo così. Quindi Llorando, o se lo preferite all'inglese Crying, di Rebecca Del Rio. Estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te di, tu mano me tocó y el saludo. Sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo. que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres. Siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor se llevó todo. Quedó llorando, llorando, llorando, llorando, llorando, llorando. Ci siamo già incontrati, mi pare. Non mi sembra. E dove ci saremmo visti? A casa tua, l'hai dimenticato. No, no, è impossibile. Ne è sicuro? Altro che, a essere più precisi, sono lì in questo istante. Dove dovrebbe essere in questo istante? A casa tua. È assurdo, non la bevo. Chiamami. Fai il tuo numero. Coraggio. Come sei entrato in casa mia? Mi ha invitato. Non è mia abitudine andare dove non sono stato invitato. Chi sei? Ridammi il telefono. È stato un piacere parlare con te. secrets travel, I start to believe if I were to leave, thin sky the man chains his hands held high, cruise me yard, cruise me bay. A blonde leaf beyond, beyond, beyond, blow me down, no return. Finiva in questa maniera strana pure il pezzo di David Bowie contenuto nella colonna musica di Strade Perdute, perché siamo entrati, ebbene sì, come avrete capito dalla piccola e inquietantissima clip, dentro Strade Perdute, il prossimo film di cui vi parliamo oggi. Questo era David Bowie con I'm Deranged, perché in effetti la colonna musica di questo film contiene un sacco di ospiti illustri, anche un po' più pop, insomma, appunto, non perché Bada Lamenti non sia illustre, da David Bowie a Lou Reed, Nine Inch Nails e il super pop Marilyn Manson, che non ci faremo mancare, che non solo comparirà come, appunto, come musicista, ma farà anche una piccola comparsa all'interno. Ah, io non me la ricordavo. All'interno di un film, all'interno del film. Ah, il cameo nel cameo. Mm. Uno dei filmati inquietanti che vengono recapitati al protagonista di questo film, che qui veramente non vi sto a dire la trama perché ci perdiamo. Comunque anche questo film, come Mulholland Drive, diviso in due parti. La prima parte ha un musicista, vengono recapitate da un giorno a un altro a casa delle videocassette, qui parliamo ancora di videocassette. Che bello, che bei tempi. Dove vengono riprese all'inizio l'esterno della sua casa e poi anche l'interno. E lui ha una relazione con questa donna molto bella, che è Patricia Arquette. E cominciano tutte le sue paranoie di tradimenti, di psicosi, che praticamente lo inducono ad uccidere e a fare a pezzi questa la sua amante, questa donna che viveva in casa con lui. E qui sembra che questa sia, diciamo, la parte comprensibile, diciamo, la trama comprensibile del film. Poi anche lì non si sa se è vero o non è vero, è solo nella sua mente, però a un certo punto viene arrestato e da un giorno all'altro in questa cella non c'è più lui, ma le guardie scoprono che c'è un'altra persona, un poraccio, un meccanico che non c'entra niente. Comunque anche questo è un gioco, il gioco del doppio che piace a Lynch come struttura del film, e poi dei tanti doppi all'interno delle menti dei personaggi, no? Tutti i personaggi che contengono all'interno altri personaggi, altri. E poi anche un po' il ritratto di Dorian Gray, perché c'è un poveraccio che comunque te fai le cose brutte e lui si piglia la colpa. Sì, come che sia poi un personaggino della sua testolina. Esatto. Però questo non, noi la prendiamo per buona così, perché appunto l'unica cosa reale è quello che vediamo. Quindi comincia tutta una serie di cose. All'interno c'è anche una sottotrama noir di gangster, malavita. Sì, è vero, con un bel momento di mafia, così che ci mancava un po'. Sì, proprio da quasi gangster story. Diciamo, qui non c'è la parte hollywoodiana come era Mulholland Drive o come sarà in parte in Inland Empire. E comunque fa, diciamo, parte del film, quasi tutto il film è incentrato appunto sul discorso immaginazione, realtà immaginazione, realtà e sogno. E a questo proposito vi volevo leggere un brano tratto da un libro che apparentemente non c'entra niente, ma stiamo parlando del Il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut, che è una lunga, lunghissima intervista di François Truffaut che fa a Hitchcock. E a un certo punto Truffaut dice a Hitchcock che comunque nei suoi film, in tutti i suoi film, anche quelli meno probabili, ci vede sempre un linguaggio molto onirico, no? I suoi film sono dei sogni, sono scritti proprio col linguaggio del sogno. E Hitchcock in realtà dice che di non essere un grande sognatore, fa dei sogni molto razionali. Non... Non l'avremmo mai detto, Sì, guarda. infatti. Strano. Però racconta, dice a questo punto, ora vi leggo invece di parafrasarvi, proprio vi leggo questo passo. E Hitchcock dice: ora, a proposito dei sogni, bisogna che le racconti una storiella, perché Hitchcock comunque gli piaceva raccontare un po' di aneddoti. C'era una volta uno sceneggiatore al quale le idee migliori venivano sempre nel mezzo della notte e, quando si svegliava al mattino, non riusciva a ricordarle. Infine si è detto: metterò un foglio di carta e una matita vicino al letto e quando mi verrà l'idea potrò scriverla. Così il tipo si mette a letto e naturalmente nel mezzo della notte si sveglia con un'idea formidabile. La scrive rapidamente e si riaddormenta molto contento. L'indomani mattina si sveglia e non ricorda di aver scritto l'idea. Si sta radendo e dice: accidenti, ho avuto ancora un'idea formidabile la notte scorsa, ma ora l'ho dimenticata, ah, è terribile. E poi dice: ah, ma no, non l'ho dimenticata, c'era la matita e il foglio. Quindi questo giovane sceneggiatore si avventa nella sua camera dal letto, raccoglie il foglio e la penna, prende questo taccuino e legge: ragazzo si innamora di una ragazza. Questo è, vabbè, un aneddoto, però come Povero. per dire che comunque non si può raccontare, non si può descrivere con un altro linguaggio quello che è il linguaggio dei sogni, che è un linguaggio che va principalmente per immagini. Come per esempio quando l'amico o l'amica ti trovano la mattina e ti dicono: oh, ho fatto un sogno incredibile, e ti devono raccontare per E forza ti questo attaccano sta sogno, pippa, è vero. che per loro è un racconto, un'esperienza incredibile, piena di emozioni, intensa, paure, amore, odio, c'è cioè di tutto in quel. Però quando te lo raccontano, il risultato qual è? Una pippa incredibile che te non vedi l'ora che finisca questo cazzo di sogno. Però, cioè, capita anche a me, che è capitato a tutti comunque. No, è vero, è vero. No, e a volte invece è anche interessante sentire parlare. Te pensa agli psicanalisti quanto sono contenti che continuamente subiscono questa cosa. Vabbè, però sì, è molto interessante tutto ciò e quindi per approfondirlo insieme usiamo un altro linguaggio che non è quello del sogno, ma quasi è quello della musica, sempre del nostro amato Badalamenti. In questo caso ci ascoltiamo sempre tratto da Strade Perdute, appunto Haunting and Heartbreaking. Thank you. this magic moment. So different and so new, was like any other. Until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, hey. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other. Until I met you, and then it happened. You know it took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine. Ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Than a summer's night. So please, baby, so please, save the last dance for me. Questo era Lou Reed, l'avrete riconosciuto, insomma era abbastanza difficile non accorgersi della sua voce con This Magic Moment. Lou Reed è altro personaggio di spicco, direi, ospite nella colonna su musica di Strade Perdute, Lost Highway. Ma adesso inserto che spezza un attimo l'atmosfera linciane, perché dobbiamo dare spazio alla consueta rubrica che ormai da qualche settimana vi sto con cui vi sto deliziando, perché è il momento della rassegna stampa di Arcorella 2000, momento che tutti voi state aspettando, sono sicura. Ho scelto ben due notizie questa settimana, visto che la settimana scorsa ho zompato la trasmissione, quindi mi faccio perdonare con ben due notizie. In particolare una notizia attuale pubblicata su Arcorella 2000, vi ricordo arcorella2000.wordpress.com per leggere la fonte ufficiale se non vi fidate di me, è pubblicata una settimana fa circa, che ci dice così: nel mondo si dibatte di moshpit safe space, ma tanto in Italia non si poga e quindi non cambia niente. Una notizia in vero un po' tecnica, dobbiamo dirlo, un po' per addetti ai lavori, ma insomma è importante darne conto in radio, visto che insomma la nostra scena è anche quella hardcore, e ci teniamo insomma di dare conto di quello che sta succedendo in questa scena. La notizia nella sua interezza dice così: Da qualche giorno, complice un inaspettato articolo del Guardian, nel mondo dell'hardcore e del metal si parla del cambiamento nell'approccio al mosh pit e di quanto, in particolare negli USA, si stia diffondendo la presenza di safe space per garantire un concerto tranquillo a quanti non vogliono o non possano pogare. Il dibattito tocca in maniera non trascurabile la questione femminista, dato che spesso questi spazi sono richiesti da donne che riportano di subire molestie con la scusa della vicinanza e dell'inevitabile scontro fisico. Molti gruppi ed esponenti storici si sono espressi dichiarando la loro opinione, spesso difendendo il fatto che pogare sia una caratteristica insita di queste sottoculture, ma sorprende il silenzio assordante sulla questione in Italia. Il motivo è semplice, potrà confermarlo chiunque frequenti concerti hardcore. Qui nello stivale non si poga, quindi la necessità di spazi sicuri per chi non lo fa non esiste. Forse dire che non si poga in assoluto è sbagliato, ma la tendenza italiana al mosh pit è sintetizzabile in pochi sintetici punti. A. Si poga se suona il gruppo famoso, storico o almeno straniero. B. Si poga se suona il gruppo che si ha la sensazione che potrebbe a breve essere famoso in modo da guadagnare punti scena. C. Si poga moderatamente se suonano gli amici. D. Si poga col gruppo locale, però dopo si deve andare via quando suona il gruppo da fuori. E. Si poga quando si è ubriachi o fatti per far vedere quanto siamo matti. F, infine, si poga quando si è iniziato a fare palestra per mettere in chiaro che adesso si è in forma. Qualsiasi altra discussione sul pogo alla luce di questi punti diventa superflua. E l'HC italiano è tutto un safe space e, come con Berlusconi in politica, l'Italia ha precorso i tempi. Bene, e questa era la notizia un po' tecnica. E ora invece veniamo alla seconda notizia, la seconda e ultima, un po' più vecchia effettivamente, mi rendo conto perché ormai è di un annetto fa, mea culpa che non l'ho vista prima, ma un anno fa Slick Chick non c'era, però è una notizia molto succosa, molto interessante, perché dice: arriva il Bacherozzo Rosso, la guida definitiva a CSA e squat in Italia. Io direi che questa notizia, cioè io veramente la attendevo da tempo, anche TripAdvisor ci vorrebbe, però almeno la guida cartacea, insomma. È finalmente disponibile nelle librerie e nelle edicole l'edizione 2016 di CSA e squat d'Italia a cura del Bacherozzo Rosso, costola alternativa del più famoso gambero. L'esistenza di questo volume era da anni reclamata da gruppi punk incapaci a trovare date e da orde di sbandati di tutta Italia in cerca di luoghi di sosta per una o più notti, e si preannuncia un best seller a giudicare dal numero di ordini già giunti alla casa editrice. Numerose le sezioni presenti, si passa da un elenco completo di tutti i centri sociali della penisola, passando per gli eventi e i festival a cadenza annuale, fino ad arrivare alle classifiche con i Bacherozzi dedicate alle cucine migliori, ma anche a quelle peggiori d'Italia, quelle che finiscono inevitabilmente in racconti e tour report che popolano gli incubi di più di un gruppo. Interessante infine il capitolo dedicato all'accoglienza, che recensisce le migliori e le peggiori camere ospiti dei CSOA, con tante di raccomandazioni sugli animali più pericolosi che le abitano e sulle qualità dei materassi disponibili. Non sono state diffuse anteprime del Bacherozzo Rosso, quindi è molta l'attesa per conoscere quali saranno gli squat che avranno guadagnato i prestigiosi 3 Bacherozzi. Resta la certezza che questa pubblicazione sarà solo il primo capitolo di un filone che potrebbe rivelarsi vitale per un'editoria italiana sempre più in crisi di idee e vendite. Bene, dopo queste importanti notizie... dal questa era importantissima. Questa era una perla che mi dispiace, guarda, di non averla scoperta prima. Ecco. C'era sfuggita. Madonna, guarda, veramente alle volte. Io non so, io a questo punto tornerei a bomba con un po' di musica e lo farei con brutalmente con i Nine Inch Nails. Che ne dici? E Nine Inch Nails, perché effettivamente abbastanza protagonisti della colonna di Strade Perdute, con ovviamente The Perfect Drug. Can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. and shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. Thank you. Eh sì, per non farci mancare niente, ma ve l'avevamo detto subito che avremmo messo Marilyn Manson a seguire dopo i Nine Inch Nails, direi che perfetto. E ovviamente all'interno del film Marilyn Manson è messo in una specie di snuff movie. È chiaro. Dove a un certo punto è presente anche questa famosa fidanzata di questo musicista, che viene vista forse da lui, forse dalle sue turbe psichiche, ed entra a questo snuff movie insieme anche alla simpatica faccetta di, appunto, di Marilyn Manson. Di Marilyn. Ma in effetti, cioè, Marilyn Manson potrebbe essere proprio il parto di qualche personalità multipla sì, sbagliata. Di qualche personaggio di Lynch. Sì, esatto. In effetti ci sta, come dare torto a Lynch. E il pezzo che abbiamo sentito era ovviamente I Put a Spell on You, un pezzo che tra l'altro penso di avervi già fatto ascoltare Slick Chick in una delle precedenti puntate, non sono così sicura. Sì, io sì, da attento ascoltatore grande, ti dico di sì. Da fan. Ebbene sì, canzone appunto originariamente incisa da Screaming Jay Hawkins nel 1956, che rimane secondo me la versione più bella ovviamente, perché vabbè, Screaming Jay Hawkins è imbattibile. Peraltro Wikipedia mi insegna che comunque lui non è che proprio fosse stato così compreso e ha avuto paradossalmente meno successo rispetto a quelle delle altre versioni. Perché questo pezzo è stato coverizzato, come si dice, da veramente un miliardo di persone, di musicisti, tra cui nel 65 Nina Simone, giusto per dire i più famosi, e da Tim Curry nel 1981, la cui versione non me la ricordo esattamente, ma penso di averla pure sentita, era pure bella, anche perché Tim Curry, insomma, Tim Curry lo ricorderete, attore protagonista del Rocky Horror Picture Show, uno dei protagonisti. E poi anche i, attenzione, e qua ci si rivogano, i Creedence Clearwater Revival, giusto per dare un colpo alla medaglia, un altro al rovescio, ecco. Brian Ferry nel 93, Brian Ferry cantante dei cosi, come si chiama, The Roxy Music. Nel 93 vabbè era già completamente sderenato, cioè, non ce lo vogliamo assolutamente ricordare così. E poi chi altro? Diamanda Galas, assolutamente bellissima versione secondo me, Joe Cocker, Jeff Beck e tanti altri. Ma attenzione, perché in italiano comunque è stata tradotta da Mogol. Che bello, Mogol, meno male che esiste ed è esistito, con il titolo Puoi farmi piangere. Sì, sì. E la sua versione è stata incisa da Gianni Pettenati con i Juniors e anche da Caterina Caselli. Sì, lo so che ci tenevate a sapere questa cosa. No, ma queste cose vanno dette. Vanno dette perché cioè, comunque fa parte del nostro bagaglio culturale. Non è che possiamo far finta che Mogol non sia mai esistito. Perché abbiamo qui dietro di noi in regia un poster di Gianni Pettenati. E quindi certo, esatto. Che ci osserva e ci Col suo indice ci dice parlate di me. Esatto, e poi comunque se si fa sentire Marilyn Manson non vedo perché non dobbiamo citare Gianni Pettenati e Mogol. E Mogol, sì, più o meno, siamo sullo stesso andamento. Quindi a questo punto, visto che vi abbiamo deliziato con queste cose, siamo, in realtà ci manca un film intero, quindi dobbiamo un po' viaggiare e vi facciamo sentire l'ultimo pezzo tratto da la colonna musica di Strade Perdute, che è di Barry Adamson e è Mr. Eddy Team, cioè il tema numero uno di Mr. Eddy. This is where mechanical excellence, 1,400 horsepower, pays off. Fuori a giocare. Quando aprì la porta di casa, egli vide il mondo. Nel passare attraverso la porta per uscire, egli causò un riflesso. Il male era nato. Il male era nato e seguiva il bambino. Mi scusi, cosa significa? È una vecchia storia. E c'è un'altra versione. Una fanciullina andò fuori a giocare. Si perse nella piazza del mercato. Come una creatura incompiuta. Non era la piazza del mercato, lei lo sa questo, vero? Ma era il vicolo appena dietro la piazza del mercato. Quella è la via che conduce al palazzo. Ma non è qualcosa di cui lei si possa ricordare. La dimenticanza capita a tutti quanti noi. E a me? Ah, io poi sono la peggiore. Oh, dove ero rimasta? Se c'è un omicidio nel suo film? No, non fa parte della storia. No. Credo si sbaglia a questo proposito. No. Un brutale omicidio di merda, sì! Non gradisco questo linguaggio. Le cose che sta dicendo, credo sia ora che vada. The side.

Questa era Christabel con Polish Poem e sì, siamo questa volta entrati in Inland Empire, come vi avevamo promesso, l'impero della mente del 2005. Avete sentito prima di Christabel quella terribile, inquietantissima clip di quella signora brutta, cattivissima, che a me veramente penso me la sognerò la notte. Quindi parliamo un po' di questo Inland Empire, che però anche qui davvero, se già prima non si poteva parlare di trama negli altri due, in questo proprio scordatevelo, perché non c'è niente da raccontare se non una serie di suggestioni e sogni, sì, o incubi come preferite. Tra l'altro si diceva fuori dai microfoni che effettivamente il fatto che sia girato con quel pre-digitale, cioè quel digitale un po' antico, con quelle luciazze brutte, chiare, lo rende veramente inquietantissimo ancora di più. Cioè, a me fa una paura quel film, mamma mia. Sì, questo aspetto un po' documentaristico, no? Che non siamo abituati a vedere, soprattutto il Lynch, questo che ci dà questo senso di realtà un po', no? Sì, che ti fa ancora più O anche, paura. sì, ancora riesce ad essere ancora più inquietante. Anche non so, la scena, quella iniziale del salotto, dove, appunto, da dove abbiamo preso questo estratto di questa attrice fantastica, che è quella che interpretava la madre di Laura Palmer in Twin Peaks. Sì, e devo dire anche la doppiatrice a sto giro era notevole, secondo me. Insomma, sebbene io non ami il doppiaggio, però insomma, beh, non facile. E una, oltre a lei, una splendida, veramente Laura Dern, che aveva già lavorato con Kubrick in altri film. Ora mi viene in mente solo Cuore Selvaggio, quello con i protagonisti sono lei e Nicolas Cage, con il giubbottino di pelle di serpente alla Marlon Brando dei vecchi tempi. Il Vabbè, qui si entra tutta Nicolasson. una serie di citazioni che Sì. forse lasceremo alla prossima puntata. E da, appunto, dalla Dern parte questo aneddoto di come è nato questo film, che ci dice Lynch. Dice: all'inizio non c'era nessun Inland Empire, nulla. Incontrai casualmente Laura Dern per strada, venendo così a scoprire che era la mia nuova vicina di casa. Capito? Uno esce di casa e incontra Laura Dern. Cioè, che non c'aveva badalamenti come vicino di casa, come Però. avrebbe sperato, però insomma, c'ha Laura Dern. Quindi, come quando uno insomma, si esce per fare la spesa, che vede il vicino, e lei dice: non la vedevo da tantissimo tempo. E lei, dall'altra parte del marciapiede, con le buste della spesa: David, dobbiamo rimetterci a lavorare insieme. Ovvia. E lui rispose: certamente, magari potrei scrivere qualcosa per te. Potremmo fare un esperimento da diffondere sul web. Lei acconsentì. Perfetto. Scrissi così 14 pagine di monologo che, secondo me, secondo le sceneggiature, tipo 15, sì, 14-15 minuti, 18 minuti a seconda, Corto. sì, di un monologo, insomma, era bello. E allora le imparò tutto a memoria per una ripresa, ah no, per una ripresa di circa 70 minuti. Ah, Madò, Quindi vabbè, no, è ma senza perché? scena, monologo senza scena. Perché, vabbè, ora ormai lo dico questa cosa, perché nelle sceneggiature in genere una pagina corrisponde a un minuto, però ci sono descritte anche le inquadrature e la descrizione dei movimenti dei personaggi. Quindi 15 pagine solo di monologo sono proprio solo di monologo. Ok. Comunque, e girano questa cosa, lui rimane entusiasta e dice: no, questo per il web è sprecato. Così comincia a scrivere altre parti sempre per questa attrice, così un po' seguendo appunto questo discorso che si faceva prima, un po' onirico, un po' del subconscio. In quel periodo, mentre faceva queste riprese, queste prove con la Derna, incontra il suo amico polacco Krzysztof Majchrak. Forse un Chissà. attore polacco, che era arrivato da poco negli Stati Uniti per girare qualcosa. E incominciano anche con lui una serie di giochi, tipo gli mette una lampadina davanti, poi gli fa scegliere degli oggetti di uso comune e lui sceglie una lampadina e da lì cominciano a girare altre parti che poi dopo saranno tutte le varie parti della stessa sceneggiatura che formerà Inland Empire, che è stata scritta giorno per giorno. Durante le riprese Lynch aggiungeva cose, non c'era niente di definitivo, ma come poi si può ben vedere Si dal vede, film, infatti. sono suggestioni, c'è cioè un macro testo, una linea principale che ci dice che forse da Hollywood ci siamo infilati dentro a un testo, dentro a una sceneggiatura, ci siamo infilati dentro a una storia in Polonia, boh, non si sa. Chissà. Comunque l'attrice, la protagonista rimane, perché lei doveva essere la protagonista del film nel film, però anche lei, dopo una serie di sconvolgimenti psichici, si ritrova in Polonia a fare quest'altro viaggio che forse è il viaggio dentro alla sceneggiatura del film che devono girare a Hollywood. E da lì poi ci perdiamo in situazioni tra prostituzione, droga. E a un certo punto dal niente spunta questo simpatico motivetto che sarebbe stato simpatico Tutt'altro in tutt'altro contesto. contesto, però parte a un certo punto in una stanza The Locomotion, È vero, è non so se la vero. versione di Grand Funk Railroad o la versione Oddio, di loro vabbè, fanno. comunque vabbè, parte questa cosa che è un grande successo, è stato negli anni, anche questo è stato coverizzato tantissimo e tutte le cover hanno avuto un grande successo, parte questo motivetto, ma quello che vediamo è talmente inquietante, anche se non succede niente, però Che sciupa anche che Locomotion. sì, Perché fa non ci possiamo diventare, avere una cosa bella non noi. si capisce che sta succedendo, però succede qualcosa di inquietante. Benissimo, benissimo. Ma noi non vi faremo sentire Locomotion No. perché non vi vogliamo sciupare anche il ricordo che avete di Locomotion, perché non siamo persone brutte. Quindi tenetevi caro The Locomotion, che magari me lo gioco una volta quando c'ho la trasmissione sul treno, che ne so, almeno tutti sono contenti e ridono e sono felici di questo pezzo, invece che pensarlo associato a Lynch e ai suoi incubi. E invece ci ascoltiamo sempre, ovviamente tratto da Inland Empire, questa volta un pezzo proprio di David Lynch. Che tra l'altro è il penultimo pezzo di oggi, perché poi chiudiamo con un altro brano sempre di David Lynch, ma questo è appunto tratto da colonna sonora, scusate, oh mio Dio, musica, e si intitola Ghost of Love. Those ghosts of love. Questa era la fantastica vocetta di Lynch, addirittura con l'autotuner, che è una roba che veramente... Lynch più autotuner, veramente da farsi del male, proprio in maniera brutale. E, siamo quasi in conclusione, direi che, anzi, siamo in conclusione. Prima di lasciarci e lasciarvi con l'ultimo pezzo, per proprio darvi la buonanotte e sogni tranquilli, sempre di Lynch, vi leggiamo un po' di appuntamenti dell'agenda, della Wombat Agenda, dagli spazi liberati fiorentini. In realtà non vi nascondiamo che abbiamo una smaccata propensione nel pubblicizzarvi il Festival della Letteratura che ci sarà alla Polveriera, inizierà domani e finirà domenica, quindi da giovedì 18 a domenica che è 21 maggio. E lo facciamo perché effettivamente i programmi del Wombat si stopperanno, tutto sarà congelato, perché seguiremo questo festival che secondo noi è importante da farvi ascoltare un po' in tutta la sua interezza, e quindi faremo dirette, ci daremo il cambio ai microfoni, i vostri DJ preferiti si daranno al cambio e vi faranno ascoltare un pochino con interviste, dibattiti, proprio presi in diretta, insomma, vi un pochino racconteranno quello che succede. Quindi ci saranno i nostri inviati direttamente dalla Polveriera che vi faranno fare un percorso insieme a noi. Un percorso sensoriale. Sensoriale sulla letteratura. Sì. E leggervi il programma sarebbe veramente lunghissimo e non lo farò, anche perché siamo già abbondantemente in ritardo, però sappiate che potete leggerlo su lapolveriera.blogspot.it, dove c'è un po' scritto tutto, e essenzialmente da giovedì a domenica appunto il tutto inizia generalmente sempre intorno alle 15 e finisce intorno alle 23, sabato addirittura, sabato e venerdì alle 24. Facciamo tardissimo. Le ore piccole, sì, perché come tutti voi sapranno la Polveriera insomma chiude presto, quindi si inizia presto e quindi venite tutti puntuali, anche perché le cose sono essenzialmente il pomeriggio o nel primo dopo cena, quindi se venite tardi, ma che siete venuti a fare, potevate starvene a casa. E altro appuntamento invece al CSA Next Emerson, venerdì 17 maggio, madonna c'è un volantino piccolissimo da leggere, non ci vedo niente, consueta mensile serata della crew Breaker che si ritrova al Next Emerson e quindi Exchange Friday, che come ogni mese dedica un venerdì alla breakdance, al funk, al soul, al disco, rap e tutto quanto. Quindi dalle 21 vinili e open ciphers e tag table, come scrivono loro, e io lo ripeto senza sapere bene cosa sto dicendo. E invece il sabato 20 maggio, The Furious Party è sempre al Cesena Extemerson. Il Coordinamento Anarchico e Libertario di Firenze presenta tre gruppi hardcore e affini, in particolare i Piscesangue di Firenze, ormai li conoscerete, immagino. Gli Infamia, invece modenesi, e gli Olocausto Grind da Prato. Direi un ottimo trittico di nomi, eh? Cioè, insieme proprio si fa, ci sta tutto nella puntata sul Lynch. Dalle 20 inizia la serata con la cena, alle 22 reading con esperienze dal mondo dell'autoproduzione e alle 23 inizia il concerto. Quindi direi un fine settimana denso, pieno di cose da fare. E quindi non lo so, Prog 20.000, cosa dobbiamo dire ancora su questo Lynch? Allora, io direi che se non li avete visti tutti, riguardatevi tutti i film di Lynch, Giusto, studiateveli. anche in base a quelle poche cavolate che abbiamo detto stasera, però magari vi possono aver aperto un po' una forma di interpretazione o comunque che vi abbia posto soprattutto delle domande. Quando guardate un film, vi dovete fare delle domande e non cercate subito la risposta, anzi, non la cercate mai la risposta, Con Lynch poi. cercate solo le domande. Giusto, giusto. E anche perché le risposte poi sono Le sbagliate. risposte sono sbagliate. E poi sì, vi diamo appuntamento anche a mercoledì prossimo con Nautodate che sarà qui in studio e ci aiuterà a indagare tutti gli altri aspetti che non abbiamo indagato oggi del caro Lynch, tutti i film più vecchi e per i fan Twin Peaks anche, che ovviamente rimane una delle cose più interessanti da sondare, direi. E quindi basta, io ringrazio Prog 70 e che appunto tutti noi aspettiamo che torni ai microfoni quotidianamente o almeno settimanalmente con una nuova trasmissione, ma presto secondo me succederà. E intanto lo ospitiamo perché ne Sì, sentiamo per la ora mi mancanza. piace fare le ospitate. Appunto, comunque ringrazio Bloody Mary per avermi ospitato, Esatto. per avermi dato questi due voucher. I punti. Ancora qui alla radio andiamo a voucher, Eh quindi sì, dopo poverini. essere stato Scatoletta di tonno, licenziato, dopo, tipo, sì. se ci compri, non Ogni lo tanto faccio qualche comparsata così so. Esatto, una birra e una scatoletta di per la tonno. È disoccupazione. così che si deve fare. Quindi vi Bene, è stato lasciamo, comunque. sì, in compagnia con questo fantastico pezzo della buonanotte per l'insonnia. E sempre David Lynch, questa volta non si tratta di una colonna musica, ma si tratta direttamente di un disco con Lynch come compositore, musicista e anche stridulamente cantante. E l'album è del 2013, The Big Dream, e in particolare vi facciamo ascoltare We Rolled Together. E poi dopo questo direi che basta, andate a dormire felici e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao ciao! Enjoy e buonanotte.